Mau Ferro, The Don Gotti, Big Boy, yeah, yeah, Milano, Paris, baby, yo, baby. Saint-Tropez, Grand, Nice, c'è via da Milano giusto a Parì, ma flow musilato from Italy. Il mio rap testa rossa Bugatti, il mio nome griffato Louis V. C'è via da Milano giusto a Parì, ma flow musilato from Italy. Il mio rap testa rossa Bugatti, il mio nome griffato Louis V. E sono dentro questa gara per il numero uno, Santo Pecani, slotto per il futuro. Cotta Zio nella testa, è il gioco più duro. È spatriato in Florida, vivo come nessuno. Tu mi giudichi, mi critichi, rimani nessuno, so se il giovino rosso a Parigi stanno sicuro. I miei soci sono russi da Gerusalemme, Vladimir porta flow nella città bohemienne. C'è via da Milano giusto a Parigi, ma flow musilato from Italy. Il mio rap testa rossa Bugatti, il mio nome griffato Louis V. C'è via da Milano giusto a Parigi, ma flow musilato from Italy. Il mio rap testa rossa Bugatti, il mio nome griffato Louis V. A Frito Liege sui neri a un del vivo, a Milano passport francese vivo. Voglio i soldi per te posto non c'è, scrivo le mie rime sui Champs-Élysées, oh. Con i miei soci abbiamo grandi progetti, non ho tempo da darti, io ti schifo in effetti. Non mi leggo, non mi spiego, da me devi levarti. Se tu sei il numero uno, io voglio mangiarti. Tengo la fame di uno squalo e sono in caccia grossa. Tengo la testa tosta, spacco le tue ossa. E Don Gadi gioca duro, gioca in borsa. Vivo la vita in corsa, F testa rossa. Non voglio più sedute alla mia tavola puta. Niente tavola puta, è troppo stupida. Di tempo non ne ho, oh shit merda. Se tu sei contro di me, nick da me. C'è via da Milano giusto a Parì, ma flow musilato from Italy. Il mio rap testa rossa Bugatti, il mio nome griffato Louis V. C'è via da Milano giusto a Parì, ma flow musilato from Italy. Il mio rap testa rossa Bugatti, il mio nome griffato Louis V. Io del mio nome sono il mio imprenditore, tante minorenni come Briatore. Parla di soldi perché è quello che capisco. Io vivo popolare, perciò prepara il visto. Conta colore viola, zero razziale. Sono un animale, sangue meticcio. Non mi parlare di storia paranormale, no, non credo in niente, con te io non mi mischio. Sono invisibile e mi muovo dietro l'angolo. Io foto questa vita Bermuda triangolo. Scompare tutto ancora nelle mie tasche. Avido bastardo, peggio di queste banche. Cenetta dolce, non ci posso fare niente. Sulla mia Tour Eiffel io sono il presidente. Bella storia per chi non vale niente e tutto sommato vive da vincente. C'è via da Milano giusto a Parì, ma flow musilato from Italy. Il mio rap testa rossa Bugatti, il mio nome griffato Louis V. C'è via da Milano giusto a Parì.